ho sentito ancora che ogni tanto ritorno la nave che ho su mio lato e insomma qualcosa di corvo, di vibrante, è carino. C'è una corda di chitarra quando la tiri, no? Trio, e poi sì. No, devo cambiare, invece sto facendo pi, direzione tra le due cambia. Ok, noi ti ascoltiamo, già ti ascoltiamo bene, il movimento si vede che sia in movimento, perché qua l'ago dello speaker un po' scende giù, un po' sale su, un po' si ferma, insomma, non rimane fermo, va. Ho capito, c'è tremolio. Un po' cosa del genere, comunque è impazzito. Anche tu già sei impazzito? Adesso tra un po' a me dovevo andare a lezionare e poi ci sentiamo più tardi se coincide. Poi non lo so, a grandi cifre, devo arrivare dopo più o meno, già lì. Guarda che terra vai, ah, io guarda spero di finire molto presto stamattina, vai, perché domani c'è mi sembra un'altra cosa di pranzo e così che non faremo tanti, ecco, cioè io una volta risposto mi manda, io magari ho fatto una casa di danica e ci ritrovo qua domani, non penso più tardi, non più tardi delle due, anzi due dovrò essere già sceso, quindi verso l'una. Vabbè, sono finisce, finisce, lo so se qua. Ok, ok, va bene. E quindi sa. Va benissimo, dai, viene approfittare della nostra carica. Vi saluto e tutto alla prossimina. Ok, salutoni circolari, vai. Ok, ciao, pronto. Ciao Sandro, vediamo domani, grazie, perché magari giustamente domani. Ok, ripeto da qua. Ok, ciao che mi uscito io. Ciao, comunque, buona c'è. Gianluca, mi uscito pure. Ciao Gianluca, ben sentito. Dove sei? Dove te la ritrovi ogni tanto? Aspetta un attimo. Io sono verso Campanella, sono già a Rosario, se sono tutta la donna, sono vicino. Un attimo. Ciao Luci, e ci sentiamo alla prossima. Ciao Sandro, buona carica, buon tutto, ciao tutta in cuore, dai. Luca, ci sei? Sì. Beh, adesso dove sei arrivato? Mi stavo dicendo che c'era il fronte a Rosario, dove? Rosario, dove c'era il video di Cristino. Direzione Alghero, questa qui, praticamente vabbè, io sono da Campanella. Strada per Alghero. E sta arrivando forte, abbastanza forte. E sta arrivando una radio di 5, Santiago di 5. Esatto, non so se è l'olio, Aspetta, la finita allora, visto che sono così. Guarda Lucia, vedo che ho aumentato qualcosa, ma la cortesia, anche se sono un po' di dentro, dovresti apportare un certo cambiamento. E adesso ho aumentato di più, mi arrivi a 7, con la radio di 5. Dove sono la campagna autologa, dove sono la parte fuori, sulla sinistra. Ecco. Volevo dire, Giampa, ma devo essere questo sono nella pigiona? Diciamo che sono un orizzontale, sono la radietta. Sì, lì non è, allora. Ecco, ma indico, quindi da stasera c'è la tipo con quella, con quell'altra radio? Ma la radio non mi riguarda, è giustissimo. Sì, come ti la paghetti, metti, stanotte? Sì, Allora se ti chiamo che magari rispondi in padre con quello. Ciao. Ciao, come ti ha chiamato, dai.